Così trascorsero 3 anni finché il terremoto non mutò le cose. Alla fine di quelle vacanze i gemelli tornarono alla capitale prima del resto della famiglia, accompagnati dalla nana, dalla servitù di città e da gran parte dei bagagli. I ragazzi andarono direttamente al collegio, mentre la nana e gli altri domestici sistemavano la casa dell'angolo per l'arrivo dei padroni. Blanca rimase in campagna con i suoi genitori qualche giorno in più. Fu allora che Clara cominciò ad avere incubi, a camminare sonnambula, vedendo segni premonitori nelle bestie: le galline non fanno il loro uovo quotidiano, le mucche sono spaventate, i cani ululano alla morte ed escono i topi, i ragni e i vermi dai loro nascondigli. Gli uccelli hanno abbandonato il loro nido e si stanno allontanando a stormi, mentre i loro piccoli gridano di fame sugli alberi. Guardava ossessivamente la tenue colonna di fumo del vulcano, scrutando i mutamenti del colore del cielo. Blanca le preparò infusi calmanti e bagni tiepidi ed Esteban ricorse all'antica scatoletta di pillole omeopatiche per tranquillizzarla, ma i sogni continuavano. «La terra sta per tremare», diceva Clara, sempre più pallida e agitata. «Trema sempre, in nome di Dio, Clara», rispondeva Esteban. «Questa volta sarà diverso, ci saranno 10.000 morti». «Ma non c'è tanta gente in tutto il paese», scherzava Esteban. La catastrofe iniziò alle 4 del mattino. Clara si era svegliata poco prima con un incubo apocalittico di cavalli schizzati in aria, mucche travolte dal mare, gente che strisciava sotto le pietre e caverne aperte nel terreno in cui affondavano case intere. Si alzò livida di terrore e corse nella stanza di Blanca, ma Blanca, come tutte le notti, aveva chiuso a chiave la sua porta ed era scivolata dalla finestra in direzione del fiume. Gli ultimi giorni, prima di tornare in città, la passione estiva acquisiva caratteristiche drammatiche, perché di fronte all'imminenza di una nuova separazione, i giovani approfittavano di ogni momento possibile per amarsi sfrenatamente. Passavano le notti al fiume, indifferenti al freddo e alla stanchezza, arruffandosi con la forza della disperazione, e solo alla vista delle prime luci dell'alba, Blanca rincasava ed entrava attraverso la finestra della sua stanza, dove arrivava giusto in tempo per sentir cantare i galli. Clara giunse sino alla porta di sua figlia e fece per aprirla, ma era chiusa a chiave. Bussò e, siccome nessuno rispose, uscì di corsa. Fece mezzo giro intorno alla casa e allora vide la finestra spalancata e le ortensie piantate da ferula calpestate. In un attimo capì il colore dell'aura di Blanca, le sue occhiaie, il suo tedio e il suo silenzio, la sua sonnolenza mattutina, i suoi acquerelli pomeridiani. In quello stesso momento cominciò il terremoto. Clara sentì che il terreno si scuoteva e non riuscì a tenersi dritta. Cadde in ginocchio, le tegole del tetto si staccarono e le piovero intorno con un fracasso assordante. Vide le pareti in muratura della casa schiantarsi come se fossero state colpite da un colpo d'ascia. La terra si aprì, così come aveva visto nei sogni, e un'enorme crepa cominciò a spalancarsi davanti a lei, sommergendo nell'avanzata i pollai, gli impianti del lavatoio e parte della stalla. La cisterna dell'acqua si inclinò e cadde a terra, spargendo 1.000 litri d'acqua sulle galline sopravvissute che starnazzavano disperate. Lontano, il vulcano vomitava fuoco e fumo come un drago furioso. I cani si sciolsero dalle catene e corsero impazziti. I cavalli, che erano scampati al crollo della stalla, fiutavano l'aria e recalcitravano di terrore prima di uscire a briglia sciolta nei campi. I pioppi traballavano come ubriachi e alcuni caddero con le radici all'aria, spiaccicando i nidi dei passeri. E la cosa più terribile fu quel rumore dal fondo della terra, quel respiro da gigante che si udì a lungo, riempiendo l'aria di spavento. Clara tentò di trascinarsi verso casa, chiamando Blanca, ma le scosse del terreno glielo impedirono. Vide i contadini che uscivano terrorizzati dalle abitazioni, invocando il cielo, abbracciandosi l'un l'altro a strattoni con i bambini, a pedate con i cani, a spintoni con i vecchi, cercando di mettere in salvo le loro povere cose in quel frastuono di mattoni e tegole che uscivano dalle stesse viscere della terra, come un interminabile rumore da fine del mondo. Esteban Trueba apparve sulla soglia della casa nello stesso momento in cui l'edificio si spaccò in due come un guscio d'uovo e crollò in una nuvola di polvere, schiacciandolo sotto una montagna di macerie. Clara si trascinò fin là, chiamandolo a grida, ma nessuno rispose. La prima scossa di terremoto durò quasi un minuto e fu la più forte mai registrata sino a quella data in questo paese di catastrofi. Gettò a terra quasi tutto quello che stava in piedi e il resto finì di crollare nella sequela di sussulti minori che seguì, spaventando il mondo fino allo spuntare del sole. Alle Tre Marie aspettarono che facesse giorno per contare i morti e dissotterrare i sepolti che ancora gemevano sotto i crolli, fra cui Esteban Trueba, che tutti sapevano dov'era, ma che nessuno aveva la speranza di trovare in vita. Ci vollero 4 uomini, agli ordini di Pedro II, per rimuovere la montagna di polvere, tegole e muratura che lo ricopriva. Clara aveva abbandonato la sua distrazione angelica e aiutava a togliere le pietre con forza da uomo. Bisogna tirarlo fuori, è vivo e ci sente! Assicurava Clara e questo le dava più coraggio per continuare. Con le prime luci apparvero Blanca e Pedro III incolumi. Clara si scagliò su sua figlia e le diede un paio di sberle, ma poi l'abbracciò piangendo, sollevata, vedendola in salvo e al suo fianco. Suo padre è lì, indicò Clara. I ragazzi si misero all'opera con gli altri e in capo a un'ora, quando il sole si era già affacciato su quell'universo di angoscia, tirarono fuori il padrone dalla sua tomba. Le sue ossa rotte erano così tante che non si potevano contare, ma era vivo e aveva gli occhi aperti. Bisogna portarlo al villaggio, a farlo visitare dai medici, disse Pedro II. Stavano discutendo su come trasportarlo senza che le ossa gli uscissero da ogni parte come da un sacco rotto, quando arrivò Pedro Garcia, il vecchio, che grazie alla sua cecità e alla vecchiaia aveva sopportato il terremoto senza impressionarsi. Si accovacciò a lato del ferito e con grande cautela gli ispezionò il corpo, tastandolo con le sue mani, guardandolo con le sue dita antiche, senza lasciarne un angolo da controllare né una frattura da prendere in considerazione. Se lo muovete, muore, sentenziò. Esteban Trueba non era senza sensi e lo udì chiaramente. Si ricordò della piaga delle formiche e decise che il vecchio era la sua unica speranza. Lasciatelo, sa quello che fa. Balbettò. Pedro Garcia fece portare una coperta e tra suo figlio e suo nipote vi collocarono sopra il padrone, lo sollevarono con cautela e lo sistemarono su un tavolo improvvisato nel mezzo di quello che prima era il cortile, ma che adesso era solo una piccola zona sgombra in quell'incubo di macerie, di cadaveri di animali, di pianti di bambini, di gemiti di cane e di preghiere di donne. Tra le rovine raccattarono un odre di vino che Pedro Garcia divise in 3 parti, una per lavare il corpo del ferito, un'altra per dargliela da bere e un'altra per bersela lui, parsimoniosamente, prima di cominciare ad aggiustargli le ossa a una, con pazienza e calma, tirando di qua, stringendo di là, risistemando ciascuna al suo posto, accomodandole tra asticelle di legno, avvolgendole in strisce di lenzuolo per immobilizzarle, masticando litanie di santi curatori, invocando la fortuna e la Vergine Maria e sopportando le grida e le bestemmie di Esteban Trueba senza mutare in nulla la sua beatifica espressione di cieco. A tentoni gli ricostruì il corpo così bene che i medici che lo visitarono in seguito non poterono credere che ciò fosse stato possibile. Io non mi ci sarei neppure provato, ammise il dottor Cuevas quando lo visitò. I danni del terremoto sommersero il paese in un lungo lutto. Non solo la terra si era scossa fino a gettare a terra tutto quanto, ma anche il mare si era ritirato per varie miglia ed era tornato in un'unica gigantesca onda che aveva scagliato le navi sulle colline, molto lontane dalla costa. Si era portato via interi villaggi, strade e bestie e aveva fatto sprofondare più di 1 metro sotto il livello dell'acqua molte isole del sud. Ci furono edifici che caddero come dinosauri feriti, altri che si disfecero come castelli di carta. I morti si contavano a migliaia e non ci fu famiglia che non avesse qualcuno da piangere. L'acqua salata del mare distrusse il raccolto, gli incendi demolirono zone intere di città e di paesi e infine colò la lava e cadde la cenere a completare il castigo sui villaggi vicini ai vulcani. La gente smise di dormire nelle proprie case, terrorizzata dalla possibilità che il cataclisma si ripetesse. Improvvisavano tende in posti deserti, dormivano nelle piazze e nelle strade. I soldati Dovettero assumersi la responsabilità del disordine e fucilavano senza processo chi veniva sorpreso a rubare, poiché mentre i buoni cristiani gremivano le chiese, invocando il perdono dei propri peccati e pregando Dio che placasse la sua ira, i ladri frugavano nelle macerie e dove appariva un orecchio con un orecchino o un dito con un anello, lo spiccavano con una coltellata, senza badare se la vittima era morta o solo prigioniera del crollo. Si scatenò un putiferio di germi che provocò diverse epidemie in tutto il paese. Il resto del mondo, troppo occupato in un'altra guerra, venne appena a conoscenza che la natura era impazzita in quel lontano angolo del pianeta, ma arrivarono comunque carichi di medicine, di coperte, di cibo e materiali da costruzione che si smarrirono nei misteriosi meandri della pubblica amministrazione, al punto che anni dopo si potevano ancora comprare gli stufati in scatola dei nordamericani e il latte in polvere europeo al prezzo dei cibi prelibati nei negozi di lusso. Esteban Trueba trascorse 4 mesi avvolto in bende, teso tra asticelle, cerotti e ganci, in un atroce supplizio di pruriti e di immobilità, divorato dall'impazienza. Il suo carattere peggiorò finché nessuno poté più sopportarlo. Clara rimase in campagna per curarlo e quando si normalizzarono le comunicazioni e si instaurò l'ordine, mandarono Blanca come interna in un collegio perché sua madre non poteva occuparsi di lei. Nella capitale il terremoto sorprese la nana nel suo letto e nonostante lì lo si fosse sentito meno che nel sud, l'ammazzò ugualmente per lo spavento. La grande casa dell'angolo crocchiò come una noce, si incrinarono le pareti e il gran lampadario a gocce di cristallo del salotto cadde con un clamore di 1000 campane, andando in frantumi. A parte questo, l'unico fatto grave fu la morte della nana. Quando passò il terrore del primo momento, la servitù si rese conto che la vecchia non era fuggita in strada come gli altri. Rientrarono a cercarla e la trovarono nel suo lettaccio, con gli occhi fuori delle orbite e i pochi capelli che le rimanevano ritti dalla paura. Nel caos di quei giorni non poterono darle una degna sepoltura, come lei si sarebbe aspettata, bensì dovettero sotterrarla in tutta fretta, senza discorsi né lacrime. Non assistette al suo funerale nessuno dei numerosi figli altrui che lei aveva allevato con tanto amore. Il terremoto segnò un cambiamento tanto importante nella vita della famiglia Trueba che a cominciare da allora divisero i fatti in prima e dopo quella data. Alle Tre Marie, Pedro II Garcia tornò ad assumere l'incarico di amministratore per l'impossibilità del padrone di muoversi dal letto. Gli toccò il compito di organizzare i lavoratori, restituire la calma e ricostruire la rovina in cui si era trasformata la proprietà. Cominciarono a sotterrare i loro morti nel cimitero ai piedi del vulcano, che miracolosamente si era salvato dal fiume di lava sceso lungo le fiancate del Monte Maledetto. Le nuove tombe diedero un'aria festosa all'umile camposanto e vennero piantati filari di betulle affinché dessero ombra a chi rendeva visita ai morti. Ricostruirono le casette di mattoni una per una, esattamente come erano prima. Le stalle, la latteria, il granaio, e prepararono di nuovo la terra per la semina, contenti che la lava e la cenere fossero cadute dall'altro lato, risparmiando la proprietà. Pedro III dovette rinunciare alle sue puntate al villaggio perché suo padre lo voleva al suo fianco. Lo assecondava di cattivo umore, facendogli notare che si spezzavano la schiena per rimettere in sesto la ricchezza del padrone, ma che loro continuavano ad essere poveri come prima. È stato sempre così, figlio. Lei non può cambiare la legge di Dio, gli replicava suo padre. Sì che si può cambiare, padre. C'è gente che sta facendolo, ma qui non sappiamo neppure le cose. Nel mondo stanno succedendo fatti importanti, asseriva Pedro III, e gli sciorinava senza paura il discorso del maestro comunista o di padre José Dulce Maria. Pedro II non rispondeva e continuava a lavorare senza titubanze. Faceva finta di non vedere quando suo figlio, approfittando del fatto che la malattia del padrone aveva rilassato la sorveglianza, rompeva la cerchia della censura e introduceva alle Tre Marie i volantini proibiti dei sindacalisti, i giornali politici del maestro e le strane versioni bibliche del prete spagnolo. Per ordine di Esteban Trueba, l'amministratore avviò la ricostruzione della casa padronale, seguendo lo stesso piano che aveva originariamente. Non cambiarono nemmeno i blocchi di paglia e fango cotto con moderni mattoni, né modificarono la larghezza delle finestre troppo strette. L'unica miglioria fu quella di mettere l'acqua calda nei bagni e di sostituire l'antica cucina a legna con un marchingegno a paraffina, cui tuttavia nessuna cuoca riuscì mai ad abituarsi e finì i suoi giorni relegato in cortile a uso indiscriminato delle galline. Mentre veniva costruita la casa, improvvisarono un rifugio di assi con tetto di zinco in cui sistemarono Esteban nel suo letto d'invalido e di lì, attraverso una finestra, lui poteva osservare i progressi dei lavori e gridare le sue istruzioni, ribollendo di rabbia per la forzata immobilità. Clara cambiò molto in quei mesi. Dovette affiancarsi a Pedro II Garcia nel compito di salvare quanto poteva essere salvato. Per la prima volta nella sua vita si incaricò, senza alcun aiuto, delle faccende materiali, perché ormai non poteva contare né su suo marito, né su Ferula e neppure sulla nana. Si svegliò infine da una lunga infanzia durante la quale era stata sempre protetta, circondata di attenzioni, di agi e senza obblighi. A Esteban Trueba era venuta la mania che tutto quello che mangiava gli facesse male, tranne le cose che cucinava lei, sì che passava una buona parte della giornata in cucina a spennare galline per fare minestrine da malato e a impastare pane. Dovette fargli da infermiera, lavarlo con la spugna, cambiargli le bende, togliergli il pitale. Lui era diventato sempre più furibondo e dispotico. Le ordinava: mettimi un cuscino qui, no, più in alto, portami del vino, no, ti ho detto che volevo vino bianco, apri la finestra, chiudila, mi fa male qui, ho fame, ho caldo, grattami la schiena più giù. Clara arrivò ad aver paura di lui, più di quando era l'uomo sano e forte che si introduceva nella pace della sua vita col suo odore di maschio ansioso, il suo vocione da uragano e la sua guerra senza quartiere. La sua prepotenza da gran signore che impone la sua volontà e fa cozzare i suoi capricci contro il delicato equilibrio che lei manteneva tra gli spiriti dell'aldilà e le anime bisognose dell'aldiquà. Giunse a detestarlo. Non appena le ossa si furono saldate e riuscì a muoversi un po', Esteban fu ripreso dal desiderio tormentoso di abbracciarla e ogni qualvolta lei gli passava accanto le allungava una manata, confondendola nei suoi turbamenti da malato con le robuste contadine che nei suoi anni giovanili lo servivano in cucina e a letto. Clara sentiva di non essere più fatta per quelle imprese. Le disgrazie l'avevano spiritualizzata e l'età e la mancanza d'amore per suo marito l'avevano portata a considerare il sesso come qualcosa di brutale che le lasciava le giunture indolenzite e metteva in disordine i mobili. In poche ore il terremoto l'aveva fatta atterrare fra la violenza, fra la morte e fra la volgarità e l'aveva messa a contatto con bisogni elementari che prima aveva ignorato. A nulla le servirono il tavolino a tre gambe o la capacità di indovinare il futuro nelle foglie di tè, di fronte all'urgenza di difendere i mezzadri dalle epidemie e dalla diarrea, la terra dalla siccità e dalle lumache, le mucche dalla febbre aftosa, le galline dalla pepita, i panni dalle tarme, i suoi figli dall'abbandono e suo marito dalla morte e dalla sua stessa incontenibile ira. Clara era molto stanca, si sentiva sola e confusa e nei momenti di decidere l'unico al quale poteva ricorrere in cerca d'aiuto era Pedro II Garcia. Quell'uomo leale e silenzioso era sempre presente a portata della sua voce per dare una certa stabilità al tramenio burrascoso che era entrato nella sua vita. Spesso alla fine della giornata Clara lo cercava per offrirgli una tazza di tè. Si sedevano su seggiole di vimini sotto una tettoia in attesa che calasse la notte ad alleviare la tensione del giorno. Guardavano l'oscurità che scendeva dolcemente e le prime stelle che cominciavano a brillare in cielo e sentivano gracidare le rane e se ne stavano zitti. Avevano molte cose di cui parlare, molti problemi da risolvere, molte decisioni in sospeso, ma entrambi capivano che quella mezz'ora di silenzio era un premio meritato. Bevevano il tè senza fretta per farlo durare e ognuno pensava alla vita dell'altra. Si conoscevano ormai da oltre 15 anni, erano vicini tutte le estati, ma in tutto si erano scambiati ben poche frasi. Lui aveva visto la padrona come una luminosa apparizione estiva estranea alle ansie della vita, di una specie differente dalle altre donne che aveva conosciuto. Anche allora, con le mani immerse nella pasta o col grembiule insanguinato dalle galline del pranzo, le sembrava un miraggio nel riverbero del giorno. Solo a sera, nella calma di quei momenti che spartivano con le loro tazze di tè, Poteva vederla nella sua dimensione umana, segretamente le aveva giurato lealtà e come un adolescente, talvolta fantasticava con l'idea di dare la vita per lei. La stimava tanto quanto odiava Esteban Trueba. Quando venne installato il telefono, alla casa mancava molto per essere abitabile. Erano 4 anni che Esteban lottava per averlo e glielo sistemarono proprio quando non aveva nemmeno un tetto per ripararlo dalle intemperie. Il marchingegno non durò molto, ma servì per chiamare i gemelli e sentire la loro voce come se fossero stati in un'altra galassia, in mezzo a un assordante ronzio e alle interruzioni dell'operatrice del villaggio che partecipava alla conversazione. Per telefono vennero a sapere che Blanca era malata e che le monache non se ne volevano assumere la responsabilità. La ragazza aveva una tosse persistente e la febbre la saliva con frequenza. Il terrore della tubercolosi era presente in tutte le case perché non c'era famiglia che non avesse un tisico da piangere, sicché Clara decise di andarla a prendere. Lo stesso giorno in cui Clara era in viaggio, Esteban Trueba ruppe il telefono a bastonate perché aveva cominciato a squillare. E gli aveva gridato che non sarebbe andato a rispondere, che stesse zitto. Ma l'apparecchio aveva continuato a suonare e lui, in un impeto di furia, gli si era gettato sopra a colpi, slogandosi tra l'altro la clavicola che a Pedro Garcia, il vecchio, era costato tanto aggiustare. Era la prima volta che Clara viaggiava da sola. Aveva fatto lo stesso tragitto per anni, ma sempre distratta perché contava su qualcuno che si assumesse la responsabilità dei dettagli prosaici mentre lei sognava osservando il paesaggio dal finestrino. Pedro Segundo Garcia la portò fino alla stazione, la sistemò a sedere sul treno e, accomiatandosi, lei si chinò e lo baciò lievemente su una guancia e sorrise. Lui si portò la mano alla faccia per proteggere dal vento quel bacio fugace e non sorrise perché l'aveva invaso la tristezza. Guidata dall'intuizione più che dalla conoscenza delle cose o dalla logica, Clara riuscì ad arrivare al collegio della figlia senza contrattempi. La madre superiora la ricevette nel suo studio spartano con un Cristo enorme e sanguinante su una parete e un incongruo mazzo di rose rosse sul tavolo. «Abbiamo chiamato il medico, signora Trueba», le disse. «La bambina non ha niente ai polmoni, ma è meglio che se la porti via. La campagna le farà bene». Non possiamo assumerci questa responsabilità, lei capirà. La suora scosse un campanellino ed entrò Blanca. Era più magra e pallida, con ombre violacee sotto gli occhi che avrebbero impressionato qualunque madre, ma Clara capì subito che la malattia di sua figlia non era del corpo, bensì dell'anima. L'orribile divisa grigia dava l'impressione che fosse molto più giovane di quello che era, nonostante le sue forme da donna tendessero le cuciture. Blanca fu sorpresa di vedere sua madre, che ricordava come un angelo vestito di bianco, allegro e distratto, e che in pochi mesi si era trasformata in una donna efficiente, con le mani callose e due profonde rughe ai lati della bocca.